Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana e allora come vanno i mercati? Non vanno, ovviamente oggi sono tutte chiuse le borse, l'euro però viene scambiato a quota 1,30 e 0,8, 1,3,08, quindi stabili sui livelli di ieri, e l'oro è in recupero sui mercati asiatici questa mattina a $1,629 l'oncia, il petrolio era stabile a $103 al barile. Di cosa ci occuperemo oggi? Beh, del tema dei mercati che oggi chiusi, ma in questa settimana ci hanno fatto molto, molto penare, e soprattutto anche del tema spagnolo e del credit crunch delle banche. Purtroppo è morto, come viene raccontato i nostri GR, l'imprenditore che si era dato fuoco a Bologna. In realtà torneremo nel nostro viaggio con i piccolissimi imprenditori che in qualche modo usiamo come caso emblematico per far capire che non c'è solo un problema, non c'è solo la burocrazia, non c'è solo il problema con la giustizia civile, non c'è solo il problema con le banche, ci sono tutti questi problemi assieme, oltre alla concorrenza che arriva dall'esterno e al calo della domanda interna. 349-238-6666 per i vostri sms. Torneremo anche sul tema del caro bolletta, perché molti di voi ci hanno scritto. Sapete cosa è successo con le bollette, l'aumento deciso dal primo di aprile, quasi 6% di luce in più e quasi il 2% in più del prezzo del gas, e da maggio potrebbe scattare un ulteriore aumento. Il governo punta a evitare questo rincaro, ma un ulteriore aumento dell'energia elettrica del 4%. Molti hanno detto è tra virgolette colpa degli incentivi alle rinnovabili, soprattutto al fotovoltaico. Pensate che noi paghiamo il 20% della bolletta, va in incentivi. Incentivi che sono giusti, ma forse hanno conosciuto più di una stortura nella loro applicazione. Anche di questo parleremo. 349-238-6666 per i vostri sms, dicevo. Altre notizie: Ceronetti questa mattina, Guido Ceronetti a Radio 24, ha invitato il governo a scendere nei mercati, nelle piazze, lo ascolteremo più avanti. Riforma del mercato del lavoro, abbiamo già detto tutto quanto ieri, ci sono oggi dichiarazioni, le ascolteremo, anche di Sergio Marchionne, numero uno della Fiat. Le posizioni sono molto nette su questo. La Confindustria ha espresso un giudizio molto molto negativo sulla modifica all'articolo 18. Ieri il primo ministro Mario Monti ha detto gli industriali se lo sognavano una riforma così 3 mesi fa. Restano posizioni molto distinte, restano anche i sindacati ad aver confermato la loro agitazione. Io direi di partire subito con le notizie in breve. Abbiamo anche, purtroppo, anche oggi qualche notizia della crisi, di nuovo la regione Lazio. Dagli Stati Uniti la conferma, già 3 giorni fa è arrivato un dato molto buono sui sussidi alla disoccupazione, scesi ai livelli più bassi dal 2008. Oggi arriva un'altra conferma: nel mese di marzo l'economia americana ha creato 120.000 posti di lavoro e il tasso di disoccupazione è così sceso all'8,2%. È comunque il dato più basso degli ultimi 5 mesi, nel senso che l'America è 5 mesi che continua a creare posti di lavoro, leggermente inferiore alle attese. A febbraio, pensate, furono creati 240.000 posti di lavoro, ma non cambia il dato definitivo sulla disoccupazione, è scesa dall'8,3 all'8,2%, tant'è che la Casa Bianca ha detto c'è molto da fare. I dati sono un'ulteriore prova che l'economia continua a risollevarsi dalla crisi peggiore, dalla Grande Depressione. È necessario continuare con gli investimenti che rafforzano le economie e gettano le fondamenta per una crescita. E poi Barack Obama è intervenuto anche sul ruolo delle donne nel mondo del lavoro e le discriminazioni, perché ha ricordato il presidente americano che che per ogni dollaro guadagnato da un uomo le donne guadagnano 77 centesimi. E quindi una differenza non da poco. E tra l'altro le donne rappresentano il 50% della forza lavoro americana, ma appunto hanno un salario che è quasi un terzo, intorno al 23% più basso di quello dei loro colleghi maschi. E poi una notizia che arriva dalla Grecia, va presa a mio avviso con le pinze, nel senso che... Allora, la fonte è il comitato greco dell'UNICEF e l'Università di Atene, l'UNICEF quindi è l'organizzazione dell'ONU per la difesa dei bambini. A causa della crisi economica moltissimi bambini in Grecia sarebbero malnutriti, vivrebbero in condizioni malsane. Secondo l'indagine... che ha il titolo appunto La condizione dell'infanzia in Grecia, in Grecia 440.000 bambini vivono al di sotto della soglia della povertà, in famiglie che rappresentano il 20%, ossia un quinto del totale dei nuclei familiari ellenici. Ora dico che va presa con le pinze, perché non è che questi 439.000 bambini siano stati creati solo dalla crisi, l'incremento però è netto, e devo dire che leggere quello che succede in America, dove con una politica molto molto accomodante sia sui tassi che nello stampar moneta l'economia sta ripartendo, e vedere quello che sta capitando nell'area euro, dove invece l'unica politica è quella di tagli alla spesa pubblica e tasse, beh, si vedono risultati un po' diversi, La Spagna. Allora, la Spagna sta per presentare all'Unione Europea un piano anti-deficit, dopo che dopo aver annunciato un mese fa che non sarebbe riuscita a rispettare quest'anno gli accordi, il cosiddetto fiscal compact, quindi gli accordi di riduzione sul deficit. Lo ha detto comunque il ministro dell'economia, Luis de Guindos, in un'intervista oggi. Presenteremo il programma di stabilità per riportare il deficit al 3% nel 2013. La Spagna, ripeto, ha già detto che quest'anno non ce la farà ad avere un deficit sotto il 3%, spiegando che una richiesta di aiuti europei non è sul tavolo e sarebbe la peggiore soluzione possibile per il paese. Nel frattempo alcuni misteri, mi tocca parlare di banche anche oggi, sul mondo bancario italiano. Perché? Perché la Banca d'Italia ha fotografato a febbraio, devo dire, un andamento del settore bancario in cui la raccolta è tornata in positivo, la raccolta che fanno le banche, è più 0,5% dopo 4 mesi di rosso, ma i prestiti sono, pur crescendo, sono cresciuti del livello più basso da almeno un anno, più 1,3% i prestiti effettuati complessivamente. E poi la fine della luna di miele. Ricorderete che 2 giorni fa sia il Wall Street Journal che il Financial Times, quindi sia il più importante quotidiano economico finanziario americano che il più importante quotidiano economico e finanziario britannico, avevano detto: è finita la luna di miele tra Mario Monti e il paese. L'articolo 18 sta creando una frattura nel paese. Sicuramente è finita la luna di miele tra il Wall Street Journal e Mario Monti. Ricorderete che il quotidiano americano aveva definito la scorsa settimana Mario Monti la Margaret Thatcher dell'Italia e dell'Europa, e oggi fa un dietrofront abbastanza netto, nel senso che dice: quello che è successo sulla riforma dell'articolo 18 e del mercato del lavoro, quindi il dietro fronte del governo sul lavoro, rinunciando a eliminare tout court il reintegro nel caso di licenziamento economico illegittimo, è una resa a coloro che vorrebbero portare l'Italia vicina all'abisso della Grecia. E insomma, il Wall Street Journal si rimangia il complimento fatto a Monti di averlo avvicinato e paragonato a Margaret Thatcher, in un accesso di temporanea eurofollia. Piuttosto la migliore analogia, dice adesso Wall Street Journal, con i britannici potrebbe essere con Ted Heath, lo sventurato predecessore della Lady di Ferro. (3) 349 238 6666 per i vostri sms. Prima di passare al tema delle banche e imprese, ma soprattutto quello che sta capitando nel ritardo dei pagamenti, perché ripeto, i tre fronti si chiamano fronte banche imprese, fronte ritardo nei pagamenti della pubblica amministrazione e fronte crollo dei consumi interni, quando parliamo della situazione spesso drammatica dei piccolissimi imprenditori. Dicevo, abbiamo qualche altra notizia su questa crisi vista da altri e di nuovo torniamo a occuparci della regione Lazio. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Ce ne siamo già dovuti occupare ieri, perché ricordavamo come nell'ultima manovra finanziaria della regione Lazio la regione ha tagliato 1.300 milioni di euro, chiudendo interi reparti ospedalieri, fondi alla spesa sociale e alla cultura dimezzati del 50%, 60 milioni di euro in meno per i trasporti, e ha aumentato le tasse, le addizionali per i laziali, di 400 milioni di euro, tra cui bollo e accise sulla benzina anche. Allora, E facciamo notare come una regione che fa una manovra complessivamente da 1.300 milioni di tagli e 400 milioni di tasse, quindi 1.700 milioni, era un po' strano che venisse approvato comunque a fine marzo il progetto per costruire due altre nuove palazzine da tre piani ognuna per la regione, dopo che già le precedenti amministrazioni, quindi Storace e il presidente della regione Lazio prima della Polverini, Marrazzo, scusatemi il buco di memoria, avevano già creato altre due palazzine. La palazzina che è stata deliberata, le due palazzine deliberate costeranno 260 milioni di euro, IVA esclusa. E oggi torniamo a occuparci di un'altra cosa, perché abbiamo scoperto che dall'inizio del suo mandato Renata Polverini ha investito milioni e milioni di euro in campagne promozionali di ogni tipo. Ora, vanno bene alcune di queste campagne, per carità, cioè se devi pianificare la giornata della donna spendi 12.000 euro, pubblicizzare il piano rifiuti, la raccolta differenziata, hanno speso 700.000 euro per pubblicizzare la raccolta differenziata del piano rifiuti, un po' tanta. Altri progetti di prevenzione per il mondo femminile, 330.000 euro per la prevenzione donna amministrata a cuore. Però insomma ci sono poi cose un po' strane, perché 20.000 euro spesi per il lancio del Museo della Zampogna, oppure l'evento Inno alla Luce in Portogallo, 22.500 euro in Portogallo, la celebrazione dell'anno internazionale delle foreste, 40.000 euro. E poi alla mostra fotografica a Bishkek nel Consolato Onorario d'Italia in Kirghizistan per i 150 anni dell'Italia, 18.000 euro, 220.000 euro per le campagne antincendio boschivo, va bene, però, e qui voglio dire va l'applauso anche oggi alla regione Lazio, va bene spendere 220.000 euro per le campagne antincendio boschivo, immagino. Va un po' meno bene che quella del 2010 sia partita da settembre, cioè ad estate conclusa, e va bene tutto, ma insomma... L'applauso oggi se lo becca di nuovo Renata Polverini per le campagne antincendio boschivo che partono dopo l'estate. Un ricone avare vecchio dice ahimè così non va, vedo nero nello specchio chissà come finirà. Oh, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Cavi fuori il portafogli, metta in giro i grossi fogli e vedrà che la crisi finirà. E poi c'è un caso interessante e la chiudiamo qui, ossia in questo fiume di denaro per campagne di promozione, campagne pubblicitarie, c'è anche il caso di Francesco Misciosce, qui siamo debitori all'Espresso che oggi pubblica la notizia, candidato nella lista Polverini, pubblicitario di professione, lui non è riuscito a essere eletto, però a dicembre la sua agenzia di marketing e pubblicità ha vinto una gara per realizzare una campagna promozionale sugli sconti sui biglietti dei tram e delle metropolitane garantiti dalla regione agli under 30, 184.000 euro di valore della campagna per pubblicizzare i biglietti di tram e metropolitane con lo sconto per gli under 30 in una società che fattura 420.000 euro, quindi insomma un ottimo rapporto con la regione Lazio. Passiamo adesso a un tema, non che questo non sia serio, ma più drammatico, sì, e mi riferisco, mentre le regioni e gli enti locali nel caso del Lazio sono molto solerti nel pagare in alcuni casi, complessivamente i nostri enti locali hanno un ritardo nei pagamenti che non ha corrispettivo in nessun paese europeo. Ormai si arriva a ritardi medi di 180 giorni, pensate, ma 180 giorni poi è una media di Trilussa, perché vuol dire in alcuni casi 300-350 giorni, contro i 35 giorni della Germania, i 50 giorni della Francia, i 60 giorni della Spagna, per un ammontare che ormai sfugge anche al calcolo, complessivamente si dice tra i 70 e i 100 miliardi di euro di ritardo di pagamenti della pubblica amministrazione, non solo quella nazionale, anche gli enti locali, regionali, province, comuni, nei confronti delle piccole imprese. I due terzi di questi pagamenti in ritardo sono pagamenti dovuti dalla struttura sanitaria. Ne parliamo allora con chi di lavoro si occupa di questo, sia l'amministratore legato di Banca Sistema, Gianluca Garbi. Buonasera. Buonasera. Voi come Banca Sistema siete specializzati, non siete una banca, diciamo, retail da sportello, ma avete tra l'altro come azionisti Royal Bank of Scotland, Special Opportunities Fund, sedi a Milano, Londra e Roma, e voi vi occupate specificamente di quello che è l'attività di garantire liquidità alle imprese attraverso la gestione dei loro crediti verso pubblica amministrazione, e quindi quanto mai sul tema. Tra l'altro, se mi vuole ricordare che cosa fate da questo punto di vista, quando un'impresa vanta, non so, 1 milione di euro o 2 milioni di euro di crediti verso pubblica amministrazione, voi intervenite? Noi acquistiamo direttamente il credito con la cosiddetta formula prosoluto, quindi sostanzialmente ci assumiamo noi il rischio nei confronti della pubblica amministrazione. Andiamo a monitorare quali sono i tempi di pagamento di ogni singolo soggetto e sulla base di questo definiamo un prezzo che non è nient'altro che una formula che è il tasso per l'aspettativa media di pagamento del debitore. Assomiglia un po' a un factoring, cioè voi vi caricate di quello che è il credito che io vanto, per esempio come impresa, nei confronti della pubblica amministrazione, date a me quei soldi e voi vi caricate il credito nei confronti della PA? Assolutamente sì, è un'attività che dal punto di vista tecnico è factoring. Effect. Cioè voi guadagnate, lo spiego a tutti, voi guadagnate su una lieve differenza di prezzo, cioè se io devo ottenere, poniamo, 1 milione di euro dalla ASL X, voi mi date 999.000 euro, e intanto io sono contento perché ottengo la stragrande maggioranza dei soldi che mi doveva la PA, a quel punto sarà compito vostro poi rivalervi nei confronti della pubblica amministrazione, e con quella differenza è il vostro guadagno. Assolutamente così, la nostra attività è molto semplice, è una banca per cui quello che noi facciamo è raccolta sul mondo del retail con conti di deposito vincolato, attività poi di investimento in titoli di Stato, rifinanziamento con banca centrale, e quindi di fatto riusciamo a restituire, abbassare il nostro costo della raccolta grazie alla banca centrale. È come se noi restituissimo parte di questi guadagni a coloro che sottoscrivono i fondi, i conti di deposito, e con questi soldi andiamo a comprare dalle imprese che sono tipici fornitori della pubblica amministrazione, andiamo a comprare i loro crediti. Quanti crediti avete comprato? Quindi avete dato alle imprese e ve li siete accollati voi? Noi oggi abbiamo un totale di impieghi, noi siamo partiti da l'estate scorsa, abbiamo un totale di impieghi di 490 milioni di euro e continuiamo ad andare avanti molto velocemente a fare impieghi. Devo dire, non è così semplice impiegare come sembra. Oggi la raccolta è particolarmente positiva grazie anche alla politica monetaria. Quando si vanno a comprare crediti, il periodo di due diligence fa sì che c'è un lasso temporale. Cioè il periodo in cui dovete valutare esattamente che tipo di credito è, quante possibilità ha la pubblica amministrazione di ripagarlo. Assolutamente. L'analisi del credito è più complicata. Ecco, 500 milioni, diciamo, complessivamente sono i crediti che voi avete, vi siete accollati, quindi avete pagato gli imprenditori e poi adesso starà a voi farvi pagare dalla pubblica amministrazione, lo dico in maniera un po' brutale. È chiaro però che, per quanto meritoria, è una goccia nel mare, nel senso che noi stiamo parlando di 70 miliardi di euro di crediti vantati. Vorrei capire, dal vostro punto di vista, la situazione, perché insomma, gli imprenditori sono preoccupatissimi da questo, ma la situazione è migliore di come la descriviamo noi, cioè in realtà poi si riesce a ottenere i soldi, oppure le difficoltà di bilancio dello Stato stanno bloccando l'intera pagamento dei debiti, in questo caso dello Stato, verso le piccole imprese? Beh, innanzitutto alcuni chiarimenti, perché si parla di questi numeri, però dato di settimana scorsa dalla stessa ragioneria dello Stato non c'è un numero definitivo, no, quindi è vero, è vero. 70 miliardi, 100 miliardi, l'unico dato di qualche anno fa è di 30 miliardi, per cui non si sa nemmeno qual è e nemmeno dove è localizzato, cioè se sono comuni, province, regioni, ASL, amministrazione centrale. Il punto è che la pubblica amministrazione alla fine paga sempre, quando dipende molto da che cosa uno va ad acquistare. Il problema del ritardo dei pagamenti, peraltro, è un problema che non riguarda solo la pubblica amministrazione. No, c'è anche privato su privato. Anche privato su privato, grandi imprese che nell'ultimo periodo, i dati di Banca d'Italia, non hanno avuto una restrizione nell'accesso al credito, le grandi imprese, piccole e medie imprese sì, le quali grandi imprese invece hanno allungato i pagamenti, certo, fra privati. Quindi il problema del ritardo dei pagamenti è un problema che riguarda pubblico-privato, privato-privato. Noi ci occupiamo della parte pubblica e ovviamente c'è una, a seconda di qual è il credito, c'è una divergenza incredibile a livello nazionale, ecco, a livello di debitore. Mi dica i crediti più difficili, come ma ci sono alcuni crediti che sono proprio incedibili. Cioè? Uno, ad esempio, i crediti nei confronti dei tribunali per le intercettazioni telefoniche, che hanno portato ad una serie di aziende quasi in fallimento. Lì è incedibile, non perché tecnicamente è incedibile, perché si pone un problema del segreto istruttorio e quindi uno non sa nemmeno, non può nemmeno chiedere informazioni sul proprio credito se è un cedente, piuttosto che quelli dei professionisti. I crediti dei professionisti non sono coperti dalla legge sul factoring, per cui anche in questo caso non sono un avvocato che per una consulenza, o un altro tipo di professionista, un commercialista che per una consulenza della pubblica amministrazione vanta dalla pubblica amministrazione, che sia un comune, che sia la provincia, la regione, lo Stato, poco importa, vanto qualche decina di migliaia di euro di pagamenti, non possiamo fare il giochetto tra virgolette che fate voi con altri tipi di crediti, cioè io li giro a voi, voi mi pagate il 99%, io sono a posto, perché un professionista, cioè è un soggetto in questo caso, non è un'impresa, non è quindi un'impresa. Non è applicabile la legge sul factoring, non è cedibile. Ecco, visto che lei proprio ci lavora su questo, non voglio che compia un'operazione, diciamo, masochista, però qual è la soluzione migliore? Perché tanto non basterà l'attività vostra, non basterà l'attività di soggetti simili. Si è molto ipotizzato e si è molto parlato di pagare le imprese con titoli di Stato che poi vanno a scadenza, cioè tu non li tocchi per 2-3 anni, ma almeno l'impresa può andare in banca e dire: guarda che lo Stato ha certificato che fra 3 anni io riscuoto il BOT, il BTP. Si è anche detto appunto di girarli alle banche direttamente con la versione pro soluto, per cui le banche si accodano questo credito e pagano l'imprenditore e poi saranno le banche a vedersela con la pubblica amministrazione. Quale delle soluzioni le sembra da preferirsi, visto che ci lavora dentro? Ma sicuramente la soluzione in cui lo Stato accelera le certificazioni di questi crediti, ovvero rende questi crediti cosiddetti bancabili, cioè acquistabili dal mondo finanziario, quindi finanziabili. Il discorso del pagamento attraverso titoli di Stato, bisogna fare attenzione, cioè l'idea che lo Stato possa in blocco pagare qualsiasi cifra sia, se fossero 100 miliardi sarebbe una cifra consistente, significa aumentare il debito pubblico, perché questi crediti, non dimentichiamo il fatto che non rientrano nel debito pubblico. Non sono contabilizzati, perché sono contabilizzati come crediti ma non rientrano nel debito pubblico, cioè lo Stato sa che deve pagare questi imprenditori e lo mette nel bilancio. Li mette nel bilancio, ma ai fini Eurostat, in tutti i paesi, non rientrano nel rapporto debito. Beh, calcolando che un punto percentuale di deficit sono circa 15 miliardi, anche fossero 60 miliardi, saremmo 5 punti percentuali di deficit in più, cioè sballerebbe ogni conto. Salterebbe economico per aria l'intera situazione, ecco, di titoli di Stato. E per concludere, dottor Garbi, secondo lei si arriverà a un accordo, che chiaramente può essere un accordo di carattere anche politico, tra la pubblica amministrazione e il mondo bancario, a dire: voi ripagate con i vostri soldi le imprese e poi ce la giochiamo tra banche lo Stato gira sostanzialmente i suoi debiti alle banche, le banche pagano gli imprenditori e poi se la vedranno loro con lo Stato. Sicuramente sì, questa è l'unica strada percorribile. Lo Stato deve trovare un meccanismo per far finanziare questi crediti senza sballare i conti pubblici. Quindi l'unico intermediario è il sistema bancario che si può accollare. Questa è l'unica soluzione. E sarebbe anche, te lo dico come chiosa, anche un modo per il sistema bancario per, diciamo, uscire da certe polemiche. Magari hai il credit crunch, però se tu riesci a liberare queste risorse per le imprese, comunque stai dando 70 miliardi di, o 60 o 30, poi bisogna vedere con quante tranche lo vuoi fare, ma stai ritornando soldi al sistema produttivo, quindi comunque migliorerebbe anche l'aspetto reputazionale. Vuole concludere su... Beh sì, c'è un altro aspetto importante, che ai fini del capitale di vigilanza, essendo nei confronti della pubblica amministrazione, esatto, pesa meno che sulle piccole e medie, cioè, imprese. Per Basilea 3, se la banca è esposta e deve avere dei soldi dallo Stato, deve accantonare meno risorse rispetto a, se non deve dare invece dei soldi, o deve ottenere dei soldi da un privato, perché è lo Stato, viene considerato un soggetto, diciamo, più garantito, anche perché assolutamente, se salta lo Stato saltano anche le banche. Grazie all'amministratore delegato di Banca Sistema Gianluca Garbi. Grazie, buonasera. Nel frattempo ci sono anche dati di oggi sui ritardi nei pagamenti delle ASL. Ripeto, il 70% di questi ritardi arriva dalla struttura pubblica. Allora, la ASL di Napoli 1 paga 1600 giorni. L'azienda ospedaliera di San Sebastiano Caserta 1443 giorni. L'azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli 1435 giorni, a Cosenza 1317, sono tutte al sud, Molise 788 giorni di ritardo, l'azienda regionale, San Filippo Neri a Roma 770 giorni di ritardo nei pagamenti, l'AS Roma E 760 giorni di ritardo, l'AS 1 a Massa Carrara 650, e questo saliamo un po' al nord, l'ASL di Forlì 496 giorni, l'ASL 12 di Venezia 447 giorni per un pagamento. Sì, vedo molti messaggi sul tema del ritardo nei pagamenti. Attenzione, non è solo un problema di rubare, ci sono, per carità, nella sanità sappiamo che alcuni costi sono ingiustificati o difficilmente giustificabili, il costo della sacca di plasma 14 volte più alto che ad Aosta. Qui il problema è però di efficienza, non possiamo dire che in automatico se c'è un ritardo nei pagamenti uno sta rubando, probabilmente non è efficiente, però la cosa incredibile è vedere che si passa dai 1500 giorni della ASL di Napoli o i 1004 di Caserta, i 1003 di Cosenza per pagare, ai 60 giorni in Friuli, i 160 nelle strutture lombarde. Quindi vuol dire che si può pagare con tempi più accettabili che non facciano nel frattempo chiudere l'impresa e far scelta all'imprenditore, purtroppo delle volte tragiche, e di cui parleremo più avanti, anche per l'appello che oggi Guido Ceronetti ha lanciato dai nostri microfoni, ospite infatti il poeta a Savadanai, ve lo farò riascoltare tra 20 minuti. Nel frattempo da Palermo oggi si scopre che dal 2007 ad oggi l'AMIA, che è l'azienda municipalizzata per la raccolta dei rifiuti, è riuscita dal 2007 a oggi ad accumulare 270 milioni di perdite in 5 anni. Complimenti, perché vuol dire una perdita media di 50 milioni di euro di perdita all'anno per gli ultimi 5 anni, anche un po' di più, visto che il 2012 non si è ancora concluso. Diciamo sui 60 milioni di euro di perdita all'anno per un'azienda municipale che deve raccogliere i rifiuti. Beh, veramente, veramente complimenti. Noi adesso invece cambiamo tema e ci occupiamo di energia, del costo della bolletta elettrica, il peso delle rinnovabili in bolletta. Ne abbiamo parlato 3 giorni fa, torniamo però sul tema. Sì, torniamo sul tema delle fonti rinnovabili e del loro impatto sulla bolletta. Molti di voi ci hanno scritto, la vicenda è nota, ci sono stati rincari nella bolletta energetica che sono scattati con il primo aprile, luce più 6%, quasi più 5,8%, e invece il gas più 2%, quasi più 1,8%. A maggio potrebbe scattare un nuovo aumento, ossia un più 4%. Il governo ha detto che punta a evitare questo ulteriore rincaro, mentre sempre a fine marzo il ministro Passera ha detto a brevissimo cercheremo di correggere le storture che si sono verificate negli incentivi alle rinnovabili. Storture, allora partiamo da due dati di fatto. In Italia l'energia è più cara mediamente del 30-35% rispetto alla media dei paesi europei. C'è stato in Italia anche un boom delle energie rinnovabili che si è concentrato soprattutto sul fotovoltaico, oltre che sulle le equivalenti, poi ne parliamo di questo. Ma insomma, il fotovoltaico ormai ha complessivamente le rinnovabili producono circa 13 gigawatt con un giro d'affari di 21 miliardi di euro e 150.000 posti di lavoro nuovi, 100 milioni di euro alle famiglie risparmiate, ma ha fatto risparmiare 100 milioni di euro alle famiglie che le usano, ha fatto spendere però a tutti gli altri e tutte le altre famiglie qualcosina. Gli incentivi hanno toccato i 10 miliardi e mezzo di euro, di cui 6 miliardi per il fotovoltaico. Quindi il fotovoltaico, i pannelli fanno la parte del leone. E praticamente in bolletta il 90% di tutti i cosiddetti oneri di sistema sono, cioè cose che paghiamo per il sistema, sono attribuibili ai rinnovabili. Quindi vuol dire che noi dentro la nostra bolletta paghiamo anche questo contributo. Le equivalenti non ci sono più, le assimilabili non ci sono più, però vorrei capire se veramente tutta, tra virgolette, la colpa può essere data alle rinnovabili con l'amministratore delegato e presidente di Assutility, che è anche presidente del coordinamento del Consorzio Energia di Confindustria, dottor Massimo Protti. Buonasera innanzitutto. Buonasera Barisoni. Perché dico? Perché ci hanno scritto alcuni ascoltatori: ah, fate disinformazione, voi non capite i benefici del fotovoltaico. Li capiamo, li abbiamo sempre difesi, abbiamo trovato con il nostro Maurizio Meris, ci ha raccontato quanto però questi incentivi siano un po' altini rispetto a altri paesi. C'è stato il piccolo problema che noi non produciamo più un pannello, quindi tutti i soldi per l'acquisto di questi pannelli fotovoltaici sono andati in Germania. La componentistica è asiatica, e poi chi ha fatto l'investimento e ci guadagna e prende i nostri incentivi sono spesso fondi comuni di investimento stranieri, perché hanno fatto grandi investimenti di pannelli, quell'energia lì sovvenzionata dallo Stato, diciamo, perché se no costerebbe troppo. Beh, le sovvenzioni dello Stato italiano, quindi dei contribuenti italiani, vanno a finire su fondi di investimento stranieri, quindi hanno arricchito anche e soprattutto gli esteri. Però è troppo dire che è colpa delle rinnovabili, cioè molti ascoltatori, dottor Protti, dicono: ma se sono i grandi gruppi energetici, quelli che ci guadagnano parecchio, quelli che adesso temono di vedere ridotti i margini dalle rinnovabili, che sono contro questi incentivi perché poi sono incentivi che non vanno a loro vantaggio, che mettono in giro la voce che tutta la colpa di questa bolletta sia da attribuirsi alle rinnovabili. Ma diciamo che sostanzialmente il tema del costo dell'energia è attribuibile a tanti fattori, e sicuramente il tema dei rinnovabili, di quello che è successo nell'ultimo anno con questo incremento incontrollato, è uno, diciamo, dei motivi. E non possiamo dimenticare che il nostro paese ha fatto una scelta strategica da ormai 10 anni di andare a gas, e quindi chiaramente avendo una produzione elettrica tradizionale importata sul gas, e noi sul gas anche da questo punto di vista non siamo competitivi, in quanto paghiamo un gas circa un 20-25% in più che i nostri colleghi europei, questo per motivi di cui si è ampiamente parlato e che si vorrebbe trovare una soluzione anche con la separazione tra Eni e Snam, quindi questo è uno dei temi, quindi un gas più caro. Il fatto che poi il gas di per sé stesso, per una scelta diciamo generale, è una commodity indicizzata al petrolio, anche se poi di fatto non ha nessun fattore comune con lo stesso, il che comporta che quando il Brent, come in questo ultimo periodo, ha cominciato quando a schizzare... Quando sale il petrolio sale anche il gas, anche se viene estratto e trasportato da altri luoghi, ma c'è questa convenzione diciamo internazionale per cui il prezzo del gas si muove seguendo il prezzo del petrolio, ahimè. Ecco, se, oltretutto poi chiaramente c'è un tema di overcapacity, perché il paese, la crisi sovracapacità produttiva, quindi chiaramente abbiamo impianti tutti lunghi, quindi questo chiaramente comporta il problema di dover spalmare tutti questi investimenti degli impianti fatti su un minor consumo. Il tema rinnovabili, in modo particolare del fotovoltaico, ha un doppio effetto. Il primo l'ha spiegato perfettamente lei, cioè il grosso impatto in termini di oneri, che oggi valgono in valore assoluto intorno a 35 euro a megawattora e rappresentano il 20% del costo in bolletta. Cioè il 20% di quello che paghiamo nella bolletta sono finanziamenti per le fonti rinnovabili. Certo, le consideri che 10 anni fa il rapporto fatto 100, il costo dell'energia totale, 65% della commodity, 35% era l'insieme degli oneri, oggi siamo 58-42, con una tendenza ad arrivare al 50-50. Quindi gli oneri che non sono, cioè tu paghi nella bolletta il consumo vero e proprio che, certo, c'è effettuato, e quella è la bolletta classica, più degli oneri di sistema, che, certo, appunto in questo caso vogliono dire anche i 10 miliardi e mezzo di incentivi per le rinnovabili, 10 miliardi e mezzo di euro, una cifra spaventosa, che vale quasi una manovra finanziaria, eh? E lei ci sta spiegando che il 20% della nostra bolletta è questa roba qui, sono gli aiuti che diamo alle rinnovabili. Però c'è solo questo, perché per esempio in Francia e in Germania l'elettricità da novembre è calata. Cioè, noi avevamo un gap storico con Francia e Germania di circa 15 euro, uno spread, chiaramente dovuto anche sostanzialmente alla modalità di produzione. La Francia nucleare è stata una scelta strategica. Negli ultimi mesi, diciamo dall'autunno dell'anno scorso ad oggi, notiamo che questo gap è arrivato a 45 euro di differenza. Cioè è aumentata la differenza, sì, tra, sì, quanto costa a noi, esatto, l'elettricità e quanto costa in Francia. Mentre Francia e Germania scendono, noi saliamo. Allora, questo è il secondo, è il secondo effetto delle rinnovabili. Come funziona il meccanismo? Sostanzialmente, al di là dell'onere, abbiamo il fatto che le rinnovabili, e quando parliamo di rinnovabili sostanzialmente parliamo di rinnovabili non programmabili, quindi eolico e fotovoltaico, di cui, come abbiamo detto prima, il fotovoltaico la fa la parte del leone. Avendo questa, la regola attuale di mercato prevede che queste fonti non sono programmabili, ma hanno una priorità di dispacciamento. Praticamente l'impianto fotovoltaico ha sempre il diritto di essere immesso in rete e non dice a priori quanta energia emetterà. Cosa succede? Il nostro sistema di mercato elettrico si chiama sistema di marginal price. Sostanzialmente stabilisce che, data una zona, vengono messi in fila gli impianti che offrono un prezzo, e questo prezzo vengono chiamati a produrre chiaramente da quelli meno costosi a quelli più costosi. Questo fa sì che esista una programmazione delle fonti tradizionali. Quando la fonte rinnovabile entra non programmata, questo comporta un cambiamento di programma rispetto a quelli che erano stati chiamati, quindi o gliene fai fare di più o gliene fai fare di meno. Questi switch comportano un onere, cioè quando a un signore gli si dice tu devi entrare e produrre e gli dici non produci più, gli devi dare i soldi anche se non viene chiamato. E quindi, se ho ben capito, ecco, ho spiegato perché sostanzialmente se le fonti rinnovabili entrano nel sistema di produzione senza avvisare, diciamo così, mentre gli altri si sono messi in fila e dicono io ho un impianto che deve produrre a costo 100 e quindi sono il primo, poi dopo di me ci sarà quello che produce a costo 120, le rinnovabili saltano la fila, con la conseguenza che poi chi si era messo in fila deve avere una compensazione se non produce più per il sistema, e tra l'altro questa compensazione poi rappresenta un costo ulteriore per il conto economico elettrico complessivo. Però non ho capito, dottor Protti, mi scusi, perché è aumentato il costo dell'elettricità anche nella fascia serale, la fascia 2, quella che si è sempre detto accendete l'elettrodomestico nella fascia 2, usate l'elettricità nella fascia 2 perché costa meno. Questo è il primo effetto, quello che aveva spiegato lei prima, e quindi alla fine il prezzo che viene definito, il cosiddetto prezzo zonale, è fatto appunto da questi impianti che vengono chiamati a produrre. La cosa incredibile è che questo meccanismo, quindi di un prezzo che anziché beneficiare del fatto che l'energia rinnovabile dovrebbe costare... non costa di più, perché alla fine l'impianto rinnovabile viene chiamato a produrre allo stesso costo dell'impianto tradizionale, quindi di fatto non abbiamo una media verso il basso del prezzo dell'energia. Il fatto che aumentino poi le anche ore esterne, che di fatto in termini quantitativi gli impianti rinnovabili, chiaramente in modo particolare fotovoltaico, che lavorano sostanzialmente a pieno regime dalle 10 del mattino fino a circa le 4 del pomeriggio, portano via le fasce di prezzo più remunerative degli impianti tradizionali, che a questo punto devono recuperare marginalità all'esterno. Allora, ho capito che oltre al costo della bolletta che abbiamo per gli incentivi che diamo alle rinnovabili, c'è un altro effetto distorsivo. Da un lato le dice ogni volta che una rinnovabile entra nel mercato qualcun altro non deve bloccare la sua produzione e deve essere compensato per questo, quindi ha un costo in più perché la rinnovabile non si mette in fila come gli altri a dire oggi quanto produco, ma entra e basta. Secondo aspetto che le diceva, siccome le rinnovabili, insomma il solare è anche, sull'eolico meno probabilmente, ma insomma il solare di cui stiamo parlando tende a funzionare durante il giorno e un po' meno di notte, vedo che anche il tecnico è d'accordo, cosa succede? Che tu produci elettricità quando l'elettricità costa di più e quindi hai maggiori margini di guadagno durante il giorno. A quel punto la sera, che tu non hai più le rinnovabili, e il gestore classico, cioè chi produce elettricità con l'idroelettrico, con il gas, recupera i margini che ha perso durante il giorno perché c'è la rinnovabile e ti applica tariffe più alte la sera per recuperare i margini. In questo caso, però, mi scusi dottor Brotti, ma qui è colpa del classico, cioè la rinnovabile mica fa nulla di male, se il sole durante il giorno è l'operatore tradizionale a cui dovrebbe essere detto: senti, tu non puoi però scaricare sulle fasce serali, che sono quelle in cui appunto non accendere la lavatrice, in cui non troppo tardi di notte si spera, ma insomma perché hai guadagnato poco durante il giorno siccome abbiamo le fonti rinnovabili, no? No, qui però parliamo di mercato. Il secondo effetto è un effetto di mercato sul quale sinceramente è difficile poter entrare. Mm. Certo è che se cambiassero le regole, e mi sembra di capire che stia per avvenire qualcosa nei prossimi in un breve periodo, cioè se noi obbligassimo le fonti rinnovabili a programmare, quindi a impegnarsi sulle quantità, e qualora sbaglino la programmazione sono tenute loro a questo punto a pagare i costi di sbilanciamento anziché farli pagare al sistema, questo comporterebbe realmente che l'entrata delle rinnovabili andrebbe a mediare il prezzo dell'energia nelle ore calde verso il basso, e quindi sostanzialmente il medione generale energetico si abbasserebbe. Si abbasserebbe il prezzo. Certo, cioè, probabilmente succederebbe sempre che le ore esterne costano di più, perché chiaramente la marginalità agli impianti tradizionali da qualche parte. Però le dice, se potessimo programmare quanta energia viene immessa ogni giorno nelle fonti rinnovabili, come facciamo con le fonti altre, per cui centrali termiche e quant'altro, certamente potremmo dire a quel punto quell'energia lì che entra nel mercato nel pomeriggio o la mattina, mi scusi, e va a abbassarmi la media complessiva del costo della bolletta. Questo per dire che le rinnovabili sono una bellissima cosa, ma poi tutti devono avere anche, cioè non è che possiamo piegare l'intero sistema per le esigenze delle rinnovabili. Io però ho la sensazione, nel concludere, visto che lei rappresenta la Sutility, cioè lei rappresenta chi compra l'energia e poi la rivende, voi fate da mediatori. Siamo, no? Siamo grossisti. Siete grossisti dell'energia. Non abbiamo produzione. Non avete un magazzino di elettricità, però comprate sul mercato l'elettricità e la rivendete ai vostri associati. Adesso lei ha fatto la battuta del magazzino. Uno dei problemi di questo mercato iperregolamentato, certo, è perché in real time, sostanzialmente è un mercato che prevede non di stoccare, quindi lo devi sempre gestire. Certo. Nella nell'unità di tempo. E che risparmio hanno i vostri associati? Noi viaggiamo con risparmi intorno al 5-10%, anche se chiaramente è molto difficile poter fissare. Cioè, i vostri associati comprano l'elettricità da voi? Sì. Che riuscite, comprandola all'ingrosso, ad avere uno sconto del 5-10%. C'è anche un altro effetto, sostanzialmente noi facendo una scelta di lavorare sostanzialmente senza avere la necessità di fare utili dividendi da dare a dei soci, non abbiamo dei soci a cui dare dividendi, chiaramente una volta coperti quelli che sono i costi di struttura chiudete in pareggio, diciamo, praticamente questa è la filosofia aziendale. Allora c'è continua la polemica nel paese, chiaramente la vicenda della Lega è l'ultima, ma prima c'era stata quella di Lusi, il tesoriere della Margherita, sul finanziamento o i rimborsi elettorali, come si chiamano adesso, perché in questa vicenda del finanziamento ai partiti c'è anche la beffa che gli italiani bocciarono il finanziamento ai partiti, che è tornato dalla finestra sotto forma di rimborso elettorale. I numeri sono impressionanti: dal 1994, quando i rimborsi elettorali ammontavano a 47 milioni di euro, si è arrivati nel 2008 a 503 milioni di euro, mezzo miliardo di euro, 10 volte tanto, e non c'è inflazione che giustifichi un aumento del genere, 10 volte tanto, il 1000% in più di rimborsi elettorali. In pratica, per ogni euro che viene speso per le elezioni, i partiti ne incassano 4 euro e mezzo. La decisione l'ha sempre presa il Parlamento e i rimborsi sono andati via via aumentando in maniera superiore all'incremento delle spese dei partiti. Ora, te credo che se tu spendi un euro e ne incassi 4 e mezzo, la tentazione poi di usare questi soldi in altro modo diventi fortissima, non dico irresistibile, ma fortissima. Non si capisce perché non si possono al massimo rimborsare i partiti per le spese elettorali, e finita lì, cioè hai speso un euro, ti rimborso un euro, il che vorrebbe dire portare da 500 milioni a 130 milioni la spesa complessiva, con un risparmio di 400 milioni quasi, che male non farebbe. La cosa incredibile è che l'erogazione dei rimborsi ai partiti, se arriva in ritardo l'erogazione dei rimborsi ai partiti, lo Stato paga loro gli interessi. E siccome abbiamo iniziato questa puntata raccontando uno Stato che paga a 1400, a 1300 giorni di ritardo nelle ASL, ma non solo, in generale a 180 giorni, tutta questa solerzia ci lascia veramente, veramente perplessi, per non usare altre parole. Lo dico nel giorno e col massimo rispetto, ma quelle cose vanno dette come sono, in cui, oltre alla notizia purtroppo attesa che è morto l'uomo che si è dato fuoco davanti alle sede delle commissioni tributarie in via Paolo Nanni Costa a Bologna, si è dato fuoco nella macchina, 58 anni, era praticamente coperto di ustioni in tutto il corpo. Ieri si è impiccato un piccolo artigiano dell'edilizia nel suo cantiere, che era allestito in un appartamento che stava ristrutturando nel Savonese. E secondo tutti i colleghi, a spingere l'uomo al suicidio sarebbero stati i problemi economici e i due figli minorenni da mantenere. L'artigiano aveva 52 anni. Noi continuiamo invece a fornire, continueremo a fornire anche i numeri di riferimento per messi in piedi dal Confartigianato di Montebelluna e da altre associazioni. Per chi avesse un problema, prima di compiere qualunque scelta, chiami, si faccia aiutare. C'è chi è disposto anche a ascoltare il problema, piuttosto, cioè, bloccate, come disse in quel famoso passaggio che vi farò anche riascoltare, l'imprenditore della settimana scorsa: verranno loro a chiudermi l'azienda, ma non fate gesti. Veramente un appello, perché riceviamo decine di mail ed sms su questo. Non fate gesti tragici, finali, gesti che, da cui poi non si torna più indietro. Di questo ha parlato oggi anche un ospite a Salvadanaio. E allora dedichiamo quest'ultima parte di Focus Economia, prima della pausa pasquale, ai nostri veri eroi. Lo dico con massimo rispetto per la politica, che chiaramente non sono i partiti politici che intascano 4,5 volte quello che spendono. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere. Sono un eroe, straordinario tutte le sere. Sono un eroe, e te lo faccio vedere. Ti mostrerò cosa so fare con il mio superpotere. Sono un eroe. Guido Ceronetti, poeta, scrittore, questa mattina a Salvadanaio con Deborah Rosciani, Radio 24, ha lanciato un appello al governo: prestate orecchio al lamento che sale dai mercati, dalle piazze. Non c'è altro commento, ve lo faccio sentire integrale in questo passaggio, a mio avviso bellissimo. L'Italia non è un paese da suicidi, non è da epidemie di suicidi, non è né Vienna né la Svezia né l'Ungheria. L'Italia è un paese dove il suicidio facile non esiste, e invece adesso è diventato una sono una quindicina, non lo so, mi pare negli ultimi due mesi, cioè, ed è proprio questa vita concreta quella a cui posso pensare. E qui potrei dire, per quanto riguarda il governo Monti, non ce n'è uno, diciamo un po' tutti, ma uno che più di questo sia distaccato dalle cose reali, anche se viene tirato giù per forza dagli eventi. Mm. Ma un piccolo paragone che si può fare, no? Invitare Monti e il suo governo a fare come facevano i principi di una volta, ecco, scendere travestiti nei mercati, ascoltare i pareri della gente, le lamentele, la tristezza, visitare lì, andare come diceva Santa Teresa, farsi scopini delle latrine dell'anima. A un certo punto questo può aiutare a capire. Ma bisogna scendere, non restare sopra, perché se non sopra è l'astrazione. Mentre qui abbiamo qualcosa che sanguina, allora bisogna prestare orecchio a questo lamento che sale. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere. Beh, immenso, Guido Ceronetti, a mio avviso, ripeto, questa mattina con Deborah Rosciani e Salvadanaio, facciano i membri del governo come i principi di una volta, che travestiti andavano nei mercati a capire che cosa pensa il cuore, l'anima, anche il fegato, lo stomaco dei loro sudditi, in quel caso. si travestissero e andassero a vedere che cosa sta succedendo nel paese, perché sennò la distanza rischia di essere incolmabile. Non c'è ancora un numero nazionale, che io sappia, per queste emergenze. La cosa la trovo un po' scandalosa. Invitammo anche il presidente della Regione Veneto la settimana scorsa a istituire un numero di aiuto, di ascolto, una rete di psicologi. C'è quello della Confartigianato di Asolo Montebelluna, il numero verde è 800 130 131, e poi c'è Terraferma, il sito www.terraferma-icr.it, una rete di psicologi che copre quasi tutto il territorio nazionale, è organizzata dall'associazione Imprese che Resistono per fornire ascolto e supporto gratuito agli imprenditori in difficoltà. Molti di voi ci hanno scritto per le parole di Cesare Benvenuti della Procoe di San Lazzaro di Savena, Bologna, nostro ospite lo scorso 30 marzo, l'appello che lanciò, o anzi, più che un appello, una minaccia, una sfida. Io ho ancora l'intenzione di resistere ancora fino alla fine. Io voglio che la mia ditta sia chiusa dallo Stato italiano. Io voglio che la mia ditta sia chiusa dalle banche. Siano loro che vengono qua e che guardino in faccia ai miei dipendenti, al mio collaboratore che ho di fianco, che ha due bambine, alla signora dell'amministrazione, ai ragazzi della linea, eccetera. Devono loro venire a guardare e dire: noi chiudiamo l'azienda e voi andate a casa. Io tutto quello che posso fare è quello di aiutarli fino alla fine. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere, sono un eroe, straordinario tutte le sere, sono un eroe, e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere, sono un eroe. Monica Telleri, buonasera. Buonasera. Lei fa la piccola imprenditrice nella provincia di Modena, giusto? Sì. È uno dei, dei numerosi, purtroppo numerosissimi imprenditori che ci hanno scritto. L'ho invitata perché, come sempre facciamo, non è che con il suo caso vogliamo spiegare tutti i casi, ma insomma il suo caso ha questo valore emblematico di paradigma, per usare un parolone. Voi operate nel settore dei serramenti in legno, quindi sì, infissi, travi, 12 anni fa siete nati in tre persone, poi avete fatto il capannone, ci sono voluti 2 anni di permessi per fare un capannone, sì, avete assunto il primo dipendente, ora siete in 4, cioè lei, il socio e 4 dipendenti, giusto? Esatto, sì. Fatturavate 300.000 euro nel 2011, ma nel 2008 eravate messi molto meglio, il picco l'avete avuto nel 2007, sì, e poi nel 2010 che cosa è successo? Nel 2010 è iniziata la vera crisi, cioè nel senso che noi in montagna eravamo un po' in un'isola felice, diciamo così, e invece nel 2010 si sono fermati tutti i cantieri e abbiamo iniziato a sentire anche noi la crisi. Cosa ha fatto lo Stato? Ha aumentato la burocrazia nel nostro settore, ha messo nuovi limiti negli isolamenti termici dei serramenti, ha introdotto la marcatura C e il controllo di produzione, cioè l'FPC, che praticamente si fa nelle grandi aziende. Praticamente è stato eliminato il contratto di artigiano, hanno inserito le commissioni sugli affidamenti, le banche le avevano inserite, se non mi sbaglio, a settembre 2009, commissioni che tutti gli anni paghiamo anche se il fido non usiamo. Che cosa vuol dire la burocrazia per chi produce per esempio serramenti in legno? Cioè è vero, mi dica, perché lei ci raccontava anche che è aumentata in maniera vertiginosa negli ultimi anni. Sì. Cioè io quando abbiamo aperto la ditta lavoravo anch'io in produzione, venivo in ufficio una volta ogni tanto giusto per fare i preventivi, le fatture, la contabilità e basta. Adesso siamo, la proporzione è 4 ragazzi lavorano in produzione e 2 siamo in ufficio. Cioè quando si produce una finestra adesso, a parte vabbè tutti i corsi di aggiornamento, perché bisogna stare sempre attenti che non cambi qualche decreto, perché non ti informano neanche se anticipano un decreto di 6 mesi come è successo nel 2010 per i vetri. e poi dopo c'è da fare il controllo di produzione, quindi tenere monitorato tutti i materiali che si utilizzano per produrre la finestra, e al cliente c'è da dare appunto questa marcatura CE, la dichiarazione energetica delle finestre, se c'è il 55% l'isolamento dei vecchi infissi, l'isolamento dei vetri nuovi col relativo certificato, il manuale di uso e manutenzione con l'indicazione di tutti gli accessori che ha la finestra, e la manutenzione, insomma, come si utilizza tutto quanto, cioè proprio un libretto di uso e manutenzione personalizzato per ogni cliente, perché ogni cliente ha le sue finestre. Tra l'altro l'elemento burocratico è un elemento che ha dei pesi enormi, perché poi tutto quello che lei ci racconta vale sia che uno faccia una finestra o che ne faccia 30, ma mi dica un'altra cosa, i pagamenti come vanno? I pagamenti, c'è sempre stato fin dall'inizio il furbetto. No, ma adesso. Però i pagamenti, la gente ha pochi soldi, quindi pagano sempre 3, 4, 5 mesi. E l'amministrazione pubblica come paga? Non mai prima di 5-6 mesi. Noi per fortuna ci lavoriamo molto poco, insomma. Mm-hmm. Mentre sulla giustizia civile, perché lei insomma veramente è un coacervo, raggruppa tutti i problemi che hanno le imprese in questo paese. Voi avete figuri. Ma voi avete avuto anche una causa. Quanto ci avete messo? No, non è ancora finita. Abbiamo fatto perfetto. Una causa per un problema che abbiamo avuto sul tetto del capannone, e noi fiduciosi nella giustizia abbiamo chiamato in causa la ditta. Sono passati 5 anni per una causa di 9.000 euro, abbiamo anticipato tra avvocati, CTU, quasi 5.000 euro, e la ditta che abbiamo chiamato in causa ha semplicemente chiesto il concordato, quindi siamo a un nulla di fatto, e comunque sia, anche se andasse avanti, io non... No, dico perché poi si parla sempre degli investimenti stranieri in Italia, se non sistemiamo il problema della giustizia civile, ma chi viene a mettere i soldi se spendi 5.000 euro di avvocati per una causa da 9.000 euro e sei ancora in causa dopo 5 anni? Ultimo tema, prima di arrivare alle tasse, le banche, ecco, qui lei ha una buona notizia. Sì, ce la dia, perché in questo periodo siamo in quaresima, prego. Io devo dire che sono rimasta molto contenta, perché... abbiamo avuto veramente un periodo molto difficile, perché qua c'è stata tantissima neve, siamo rimasti chiusi praticamente un mese, quindi fatturato assolutamente zero, e ho chiesto l'aiuto momentaneo a una banca con la quale lavoriamo da tantissimi anni, e loro mi hanno aumentato il fido provvisoriamente, sicuramente fino a luglio, però senza richiedermi ulteriori garanzie. E diciamo anche la banca, visto che facciamo sempre i nomi in negativo, diciamo anche i nomi, mi dica chi è. La banca San Gimignano e San Prospero, che se non ricordo male dovrebbe essere il gruppo popolare di Verona. Di Verona, esatto, sì. Allora, fronte tasse. Voi avete fatto cassa integrazione? Perché adesso io... Abbiamo richiesto adesso la cassa integrazione, abbiamo la cassa per 6 mesi al 50% praticamente per i ragazzi. Quindi al 50%? Sì. Per tutti i suoi 4 dipendenti? Sì, non li facciamo fare meno possibile ogni tanto, quando proprio siamo bloccati, perché i clienti... tutti spaventati, dei preventivi fermi, della roba ferma in laboratorio, e non va via, e io non so come fare. Ma è la prima volta che fate cassa integrazione? La prima volta in assoluto, anzi, qui era un problema fare un ponte, cioè aggiungere un giorno a una festività, insomma. Se voi avete una concorrenza che arriva dall'estero, ne abbiamo parlato anche altre volte, dalla Bulgaria, costano il 40% in meno, ma adesso veniamo al punto, la banca è andata un po' meglio. I pagamenti sono in ritardo, la giustizia civile abbiamo visto com'è, e la burocrazia pure. Allora, lei le ha pagate le tasse l'anno scorso? Sempre, sempre pagate le tasse. E l'anno scorso le ha pagate? Sì. E come ha fatto a pagarle? Ho fatto finanziamento per pagare le tasse. Hai fatto un mutuo per pagare le tasse? Sì, sì. Ho fatto, lo so, è assurdo, però quando si arriva che... Un dipendente, per dargli 15.000 euro l'anno, ne devi pagare 27. Tu per stipendiarti, tu con il tuo socio, per stipendiarti 10.000 euro all'anno, all'anno, che non si pensi, la mia ditta ne deve pagare 17.200, quindi la ditta deve pagare tutte le spese, i margini sono ridotti, deve pagare le spese di amministrazione, spese di gestione, l'INPS, l'INAIL, l'IRAP, l'IRES, i bolli auto, le vidimazioni e libri sociali, i tributi locali, l'IMU adesso ci sarà, poi alla fine quando c'ha il suo bell'uccellino che è assolutamente irrisorio, deve anche trovare 17.000 euro per pagare 10.000 euro a un socio. 17.000. Senta, fare il mutuo per pagare tasse è veramente, sì, con questi tassi, sì, una cosa che non invidio. Ma voi quanto riuscite ad andare avanti a sto punto? Non lo so, noi adesso non vogliamo mollare, però bisogna guardare in faccia la realtà. Cioè, stiamo cercando veramente, abbiamo fatto fiere, stiamo cercando anche di provare a cambiare prodotto, cercare di trovare delle idee nuove, però non ha senso. Cioè, andare avanti vuol dire indebitarsi per pagare le tasse, per mantenere tutte queste spese che ci sono per una gestione così piccola, per una ditta piccola come la nostra, c'è un costo burocratico, un costo di gestione grande come una ditta di 12-15 dipendenti. Non è possibile sostenere una cosa del genere. Cioè, bisogna guardare in faccia la realtà. Io anche ho due bambine piccole, la cosa che mi dispiace è che io, a differenza di quello che hanno fatto i miei genitori, non potrò lasciargli nulla. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere, sono un eroe, straordinario tutte le sere, sono un eroe. Buona Pasqua a Monica Telleri, in bocca al lupo veramente, signora, lei e i suoi figli, buona Pasqua. Anche a Cesare Benvenuti, a tutti i Cesare Benvenuti, a tutte le Monica Telleri che ci sono in questo paese, sono decine di migliaia di imprenditori che non ce la fanno. E voglio raccogliere, visto che siamo alla vigilia della Pasqua, un invito. Abbiamo parlato dei costi della politica, i partiti si stanno sciogliendo come neve al sole perché il consenso è pari a zero, l'8%. Allora, perché non fanno un'operazione semplice? 400 milioni di rimborsi elettorali, li girino in un fondo per gli imprenditori. Tanto a marzo dell'anno prossimo si dovrebbe andare alle elezioni, perché sennò così provino a fare un gesto, no? Lusi, Bessito, tutti, no? Girate i soldi a un fondo per gli imprenditori, poi finirà, ma almeno si capisce che voi, per usare Ceronetti, sapete fare come i principi che si travestono per andare nei mercati a sentire cosa dice la gente, perché sennò se va avanti così fra un po' vi dovrete travestire e basta. Grazie come sempre a Mauro De Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione anche questa settimana. Focus Economia torna domenica da Sebastiano Barisoni. L'auguro di un buon ponte pasquale per chi lo fa. Martedì dalle 17 in poi torneremo a raccontare l'economia e la finanza di questo paese.